Europa 24. Nel biennio 2013-2014 sono 15.846 le persone registrate come vittime della tratta nell'Unione Europea. Un dato in realtà calcolato molto ragionevolmente al ribasso, è infatti molto difficile denunciare questo fenomeno, ma questo è comunque il dato che emerge dalla prima relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani adottata questa mattina dalla Commissione UE. Un buongiorno dunque da Gigi Donelli, questa è la prima notizia nel nostro spazio europeo. Parliamo ancora di migrazione e di migranti. Questa mattina è intervenuto Avramopoulos, come sapete è responsabile proprio di questa delicatissima tematica, ha parlato dell'Italia, ha invitato l'Italia a intensificare gli sforzi in atto per fornire le condizioni di accoglienza necessarie a prevenire le fughe dai campi. Insomma, si dice Italia bene per i passi compiuti, ma bisogna creare più hotspot, più controllo sui migranti illegali, ovviamente, che entrano nel nostro paese. Il servizio. All'ordine sparso con cui procede l'Europa cerca di dare una linea il commissario Avramopoulos. Sebbene l'accordo con la Turchia mostri le crepe, Bruxelles ci fa affidamento e ha fatto proprio un atteggiamento più fermo e dunque più duro nei confronti dei migranti. Per Roma significa incassare il fatto che le preoccupazioni austriache e la conseguente possibilità di adottare misure straordinarie e provvisorie vengano avallate dalla Commissione. Significa anche che, nonostante l'impegno italiano sia riconosciuto, i nostri centri di accoglienza sono sotto osservazione, tanto da rischiare una procedura di infrazione, e comunque ci viene chiesto un impegno ulteriore, altri hotspot in vista di flussi più imponenti. E l'ipotesi di hotspot galleggianti non è vista di buon occhio. L'Europa non può bloccare le migrazioni verso il proprio territorio, ma può gestirle, ha detto l'alto rappresentante per la politica estera era Federica Mogherini. Il piano europeo però fa acqua. Su 20.000 profughi da ricollocare entro metà maggio, Italia e Grecia sono riusciti a trasferirne solo 1.500. In Grecia restano ammassate 55.000 persone, tante ancora ai domeni, dove ieri sono scoppiati violenti scontri con le forze dell'ordine. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo invece di glifosate o glifosato, sono entrambi utilizzabili dopo verifica e condivisione e un certo dibattito. Dunque, glifosate, che come sapete è un erbicida, viene utilizzato dunque in agricoltura, viene utilizzato in maniera estremamente ampia. Beh, intorno a questa sostanza si erano stati sollevati gli interrogativi sull'impatto sanitario. Posizioni che sono cambiate nel corso delle settimane e dei mesi. Qualche giorno fa l'OMS, facendo di fatto un parziale dietro fronte, ha detto non esiste nessuna indicazione sul fatto che questo erbicida possa avere delle ricadute cancerogene. Insomma, Adriana Fracchi ne ha parlato questa mattina con Giovanni Lavia, che è il presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, perché nei prossimi giorni si dovrebbe arrivare alla definizione ufficiale, appunto alla posizione formale e comune dei 28 paesi nei confronti di questo erbicida. Sentiamolo. Prosegue in Europa la discussione sull'uso del glifosato, l'erbicida più diffuso al mondo. Un comitato tecnico dei 28 è incaricato di valutare il rinnovo dell'autorizzazione per l'utilizzo di questa sostanza in agricoltura, che scade il 30 giugno. Entro quella data la Commissione europea dovrà prendere la sua decisione finale. Una partita delicata che vede sul fronte dei contrari la Francia, tra gli scettici l'Italia e la Svezia e tra i favorevoli l'Olanda. Ma a pesare potrebbe essere l'astensione della Germania. La proposta di rinnovo dell'uso del glifosato in agricoltura, attualmente sul tavolo a Bruxelles, per un periodo di 6-7 anni invece dei 15 attuali, per poter fare ulteriori valutazioni scientifiche sui suoi effetti sulla salute. Al momento infatti non ci sono ancora evidenze che il glifosato sia realmente cancerogeno. A sostegno di questa tesi, un recente report di esperti della FAO e dell'OMS, dal quale emerge che è improbabile che assumendolo attraverso il cibo abbia effetti dannosi sulla salute umana, in linea con le conclusioni raggiunte dall'EFSA, l'Agenzia Europea per la Sicurezza alimentare, ma in contraddizione rispetto a una precedente valutazione dell'Agenzia per la ricerca sul cancro della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità. Il presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, Giovanni Lavia. La situazione è complessa, ma non esistono evidenze scientifiche che il prodotto sia cancerogeno. Se esistessero, dovrebbe essere immediatamente ritirato dal commercio. ci sono almeno 300 studi formulati che dicono che il glifosato non è cancerogeno. Diamo del tempo per avere le ulteriori evidenze scientifiche, ma non eliminiamo dal mercato un prodotto che è essenziale per l'attività agricola. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con questo è tutto per il nostro spazio europeo di metà giornata. Naturalmente questa sera vi ricordo Use On, il nostro momento di incontro invece con gli europarlamentari, il loro lavoro, i loro progetti con e a cura di Silvia Bernardi. Noi invece ci risentiamo domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.